cuore, senti il battito. Noi due soli, così effimeri come nuvole senza cieli, fuochi accesi tra le pagine, occhi chiusi, mani fragili. Dammi un sogno per difendermi, lascia un segno per non perdermi. Non portarti via da me, prova a spiegare perché. Se parole non hai più, dammi solamente un brivido. Scalda l'aria come sai, con l'altra delle tue magie e i tuoi gesti che ora so che ho perduto e già mi mancano. Tutto l'amore che c'è è solo quell'emozione che brucia e consuma da sé. Basta un colpo di vento che soffia già dentro di me. Chiude il cerchio delle stelle che tremano sopra di noi come mille fiamme languide molto lontano da qui. Un sole stanchissimo muore e quello che resta di noi è questa spenta illusione che ora non ci basta più. Astri moribondi e inutili stendono sopra di noi luci che più non ci scaldano. Basta un attimo, se del cuore senti il battito. Dammi un sogno per difendermi, lascia un segno per non perdermi. Non portarti via da me, prova a spiegare perché. Se parole non hai più, dammi solamente un brivido. Scalda l'aria come sai, con l'altra delle tue magie e i tuoi gesti che ora so che ho perduto e già mi mancano. Tutto l'amore che c'è è solo quell'emozione che brucia e consuma da sé. Basta un colpo di vento che soffia già dentro di me. Chiude il cerchio delle stelle che tremano sopra di noi come mille fiamme languide molto lontano da qui. Un sole stanchissimo muore e quello che resta di noi è questa spenta illusione che ora non ci basta più. Astri moribondi e inutili stendono sopra di noi luci che più non ci scaldano. Tutto l'amore che c'è sta dentro questa canzone che ora viaggia con te. Basta un colpo di vento che soffia già verso di me. Sento il verso delle stelle che brillano sopra di noi come mille fiamme languide molto lontano da qui. Un sole antichissimo vuole che quello che passa di noi spenga questa illusione che ora non si sente più. Astri moribondi e inutili stendono sopra di noi luci che più non ci scaldano.